Ben ritrovato Michele Riondino. Ciao a tutti e a tutte. Con te per parlare intanto dell'avvio della campagna crowdfunding Un omaggio per tutti, tutti per un omaggio. E poi facendo un po' di passi indietro, intanto parliamo di quest'idea, di questa realtà che si è creata Un omaggio libero e pensante, Michele. Ce la riproponi un po'? Sì, beh, allora, innanzitutto c'è da dire come nasciamo. Cioè, il Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti nasce in occasione di una manifestazione organizzata dalle tre sigle sindacali che in occasione del giudizio della magistratura del 2012, quando decisero di chiudere, di sequestrare gli impianti perché ormai provata era il fatto che inquinassero e che molte morti fossero dipendenti proprio da quell'inquinamento, dall'inquinamento di quegli impianti. La magistratura decretò l'illecito. Le sigle sindacali organizzarono questa manifestazione. Il comitato chiese la parola, chiese di parlare da quel palco, ma ci fu negato di parlare su quel palco e in maniera abbastanza prepotente occupammo quella piazza. E per la prima volta il Comitato ebbe l'occasione di dire la sua. E in quell'occasione dicemmo proprio che quelle sigle sindacali non potevano più rappresentarci perché quelle sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, erano parte, sono parte del problema. E quindi da quel giorno il Comitato ha cominciato a organizzare assemblee cittadine nelle quali liberi cittadini potevano prendere la parola e dire la propria. Tutto questo finché poi a maggio è stato organizzato questo concerto del 1º maggio con l'intenzione, così come il 2 agosto abbiamo occupato quella piazza delle sigle sindacali, l'1 maggio abbiamo deciso di rioccupare la giornata dei lavoratori per riprenderci quella giornata e sottrarla alla ormai inesistente festa di San Giovanni. Senti, le risposte della gente e anche degli artisti sono state notevoli. Beh, dal primo anno, quindi parliamo del 2013 ad oggi, sì, abbiamo ottenuto, a parte un consenso di pubblico importantissimo, perché siamo passati dalle prime 50.000 persone a oltre 200.000 persone di 2 anni fa. Il nostro messaggio politico è un messaggio che ogni anno rinnoviamo e che ogni anno gli artisti che decidono di suonare gratuitamente alla nostra manifestazione sposano. E quest'anno il nostro documento politico è tutto incentrato su un accordo di programma che preveda la chiusura delle fonti inquinanti e un tavolo sul quale poter studiare un piano B, dove piano B significa riconversione economica della città. Cioè voglio dire, fino ad oggi, e continuerà anche domani sicuramente, perché se abbiamo al governo persone come Calenda o amministratori come Melucci, Emiliano, ovviamente il futuro non è roseo e quindi quella grande industria ha abbattuto tutte le altre possibilità di sviluppo economico, non abbiamo turismo, a noi il terziario non esiste, noi abbattiamo le nostre pecore, non possiamo mangiare i prodotti della nostra terra, pur vivendo in uno dei posti più belli d'Italia, che continua ad essere uno dei posti più belli d'Italia. Quindi questo accordo di programma che noi vogliamo cominciare a studiare deve essere in previsione della chiusura delle fonti inquinanti e di un'idea di riconversione economica della città e di ribonifica degli impianti utilizzando la forza lavoro dell'ILVA stessa. Sì. Michele, questa campagna parte dopo un anno di pausa. Ecco, ci racconti un po' cos'è successo e come poi avete stabilito l'avvio di questa nuova forma di sottoscrizione per arrivare al 1º maggio. Guarda Fede, l'anno scorso non l'abbiamo fatta e io ero uno di quelli che voleva farla comunque, però era giusto, l'abbiamo discussa molto come i Sì. pezzi e poi abbiamo deciso di non farla. Forse avevano anche ragione chi insisteva nel non farla, perché l'anno scorso c'erano le amministrative a Taranto ed è stata una campagna, ovviamente una campagna elettorale selvaggia, una campagna elettorale che come questa, insomma, Sì. la nazionale puntata e incentrata su fantomatiche idee di soluzione del problema, cioè voglio dire, avevamo un PD che poi si è riconfermato e il PD è praticamente il partito che ha prodotto 12 decreti salva IVA e quindi ha continuato e insiste nel mantenere aperta quella fabbrica e soprattutto nel mantenere aperta quella produzione, nel non ridurre quella produzione. Voglio dire, noi abbiamo un'idea ben precisa e il rischio che la manifestazione l'anno scorso potesse diventare un'occasione per i partiti Sì. sia per legittimare che delegittimare quella manifestazione, abbiamo preferito mantenerla indipendente e sacrificarci per un anno. Ti dico che l'anno scorso, al mio annuncio di non fare il nostro concerto, molti, moltissimi imprenditori, professionisti, tarantini, oltre che candidati sindaci dell'anno scorso, si sono offerti per darci una mano che il concerto si facesse. Ho dovuto rinunciare a soldi, ho dovuto rinunciare a partnership, ho addirittura rinunciato all'idea di uno dei candidati sindaci che proponeva di usare quel palco per tutti i candidati sindaci, come se fosse una tribuna politica, un pulpito dal quale poter farsi conoscere. Ecco, quindi questi erano ovviamente Sì. elementi che non abbiamo sottovalutato e quindi abbiamo deciso veramente di fermarci per un Certo, attimo. certo. Com'è partita invece la campagna quest'anno per la sottoscrizione? Guarda, quest'anno abbiamo creduto fosse una buona idea fare affidamento a Music Rider, che questo supporto dove, attraverso il quale è possibile fare campagne di crowdfunding. E sulle pagine di Music Rider c'è la pagina che ci riguarda, dove praticamente abbiamo lanciato questa raccolta fondi per raggiungere una soglia minima necessaria per poter sostenere le spese di un evento che continua a rimanere indipendente. Noi non vogliamo soldi da nessuno, non vogliamo soldi pubblici. Noi preferiamo chiedere i soldi a chi fruisce di quell'evento, a chi viene a ballare in quella giornata. Ecco, noi vogliamo soltanto l'aiuto di tutti per mantenere viva forse l'unica manifestazione, non l'unica, perché comunque c'è Alta Felicità in Valsusa, con i compagni della Valsusa siamo gemellati, saranno dei nostri, verranno, ci stanno dando una grandissima mano, così come noi andiamo da loro, loro vengono da noi. Sì. Ecco, l'idea è quella proprio di fare rete, Federico, è Sì. proprio quella di aiutarci tra di noi, e così con i compagni della Valsusa, così con anche con Riace, che c'è quest'altro festival che fanno in estate. Noi cerchiamo di creare rete, perché solo insieme possiamo darci una mano, e quindi attraverso la pagina Music Rider c'è la possibilità di dare un contributo ed essere parte attiva dell'evento. Ecco, il nostro motto è: io non delego, io partecipo. Sì. Partecipo, e quindi continua ad essere questo il cuore della nostra motivazione. Ecco, la nostra motivazione principale è questa. Sì. Senti, idee anche rispetto all'evento, a come farlo sentire in giro per l'Italia? Guarda, allora io sono in tournée con uno spettacolo, ho avuto la possibilità di girare l'Italia e devo dire che mentre giravo mi è venuta un'idea, perché parlando ovviamente con compagni a Brescia, con quelli di Radio Onda d'Urto, mi è capitato di parlare a Livorno con Luca di questa trattoria Mela Fumo, che è fantastica, io non c'ero mai stato, è incredibile, con Radio Sherwood, con Radio Popolare. Ecco, ho pensato che forse era il caso di creare rete anche attraverso le radio di movimento, e quindi ecco, vi lancio una proposta, sì. Quella di: venite a Taranto, facciamo rete anche nelle radio, perché fondamentalmente dobbiamo essere noi, attraverso i nostri canali dobbiamo senza filtri, ecco, dobbiamo arrivare lì dove è difficile arrivare, perché il problema di Taranto fondamentalmente è questo, cioè nei canali istituzionali parlano esclusivamente della questione Taranto, solo in chiave industriale, solo in chiave di fabbrica, cioè sembra tanto di sinistra parlare parlare di lavoro, ma nessuno si rende conto che parlare di diritti oggi è diventato qualcosa che manca nella campagna elettorale, che manca nei discorsi che servono alla gente. Ecco, quindi io vorrei che si cominciasse a parlare della questione tarantina, perché è una questione di mancanza di diritto. Sì. Quindi la mia proposta è quella di fare rete anche tra le radio, venite giù da noi e trasmettete da noi quello che succede, anche perché è ora che voi vediate quello che succede a Taranto il 1° maggio, perché è davvero una bella... è davvero molto suggestivo. Ecco, proprio a proposito di questo, Michele, ti chiedo, visto che la questione centrale è la forbice tra ambiente, salute e lavoro, che situazione c'è al momento? È di stallo o qualcosa si muove? Guarda, è il solito stallo, cioè nel senso che lo stallo peggiora sempre di più la condizione dei cittadini. Si sta parlando adesso della copertura dei parchi minerali. Adesso il discorso è questo: se si vuole davvero bonificare un territorio, non lo si può fare con un impianto inquinante acceso, e quegli impianti lì non possono essere spenti e riaccesi dall'oggi al domani. Ovviamente siamo più realisti di chiunque altro, noi conosciamo gli impianti, il comitato è fatto di operai che vanno contro i loro stessi interessi nel momento in cui lottano per un diritto alla salute che condiziona la vita della famiglia, la vita dei propri figli. Quindi sono operai, sono lavoratori che si mettono contro una logica egoista, e questo è il nodo centrale. E quindi che succede? Succede che vogliono far credere che adesso si risolverà tutto con la copertura dei parchi minerali, ma non è così, perché i parchi minerali sono un piccolo problema nel grandissimo problema di quell'acciaieria. Quell'acciaieria l'ha chiusa il mercato. Quell'acciaieria, venderla ai concorrenti, cioè l'hanno venduta agli indiani, che non faranno altro che o spegnerla o comunque non bonificarla. Sì. Noi continueremo a vivere con questa bomba ecologica sotto il culo, e praticamente si sono passati il cerino nella migliore tradizione italiana. Sì. Noi chiediamo di cominciare, noi sappiamo che non si può chiudere dall'oggi al domani, ma noi chiediamo, pretendiamo che si cominci a ragionare in ottica e in chiave di chiusura. Sì. Perché così questo, il nostro futuro non è l'acciaio, il nostro futuro potrebbe essere la bonifica, la specialistica nelle bonifiche, quello potrebbe essere il nostro futuro. Noi abbiamo uno dei porti più importanti del Mediterraneo, quello potrebbe essere il nostro futuro. Sì, il turismo, sì, potrebbe essere il nostro futuro, l'agrario, il terziario, quello potrebbe essere il nostro futuro. È paradossale che nella più grande acciaieria d'Europa, a fianco alla più grande acciaieria d'Europa, in tutti questi anni non sia nata un'azienda che produca forchette. Perché? Perché noi produciamo acciaio e lo mandiamo in tutto il mondo, ma fondamentalmente non ha mai sviluppato economicamente il nostro territorio, l'ha solo sfruttato. Sì. Quindi noi chiediamo, pretendiamo che si cominci a ragionare in un'ottica di piano B che rilanci economicamente il territorio. Michele, in chiusura, ci dai tutti gli estremi in rete per questa campagna crowdfunding? Ripeto, 1° maggio per tutti, tutti per 1° maggio? Sì, allora basta andare o sulle pagine Facebook del Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti o delle mie pagine, o sulla pagina di Music Riser, e trovare insomma la nostra raccolta fondi, che è 1° maggio per tutti, tutti per 1° maggio, e con diverse soluzioni, di diversi pacchetti si può essere parte attiva del nostro evento. Vi aspettiamo ovviamente in tanti, anche perché quest'anno novità cercheremo. Stiamo lavorando per, dato che l'1° maggio arriva di martedì e quindi ci sarà un ponte, noi già domenica cominceremo a festeggeremo con della musica elettronica in questo parco, faremo praticamente un grande picnic che si protrarrà fino alla sera, e con diversi DJ che ci accompagneranno. Bene. Poi il giorno dopo ci sarà il soundcheck, che è anche motivo di festa, con tutti i gruppi che verranno a fare il soundcheck, e poi il 1° maggio sarà festa per 11 ore insomma sotto il sole di Taranto. Dovete venire anche voi, Federico. Eh sì, Michele, tu la proposta l'hai lanciata, allora ci sentiremo sicuramente prima del 1º maggio e dell'1 maggio per quagliare. Va bene, va bene. A presto, ciao Michele.